La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e ben ritrovati all'appuntamento con La storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole di questa settimana è dedicato al libro inchiesta Milano Corea, inchiesta sugli immigrati negli anni del miracolo. Una raccolta di interviste realizzate dall'operaio Franco Alasia alla fine degli anni 50. Oggi il volume è stato ripubblicato dall'editore Donzelli con l'introduzione dello storico Guido Krains, oggi ospite ai nostri microfoni. Ma la parola ora va a Dino Pesole. Il cosiddetto miracolo economico della fine degli anni 50 del Novecento non fu soltanto un periodo di massima espansione della nostra economia, trainata dall'esplosione dei consumi e dalla massiccia industrializzazione di intere aree del paese. Fu anche il periodo delle grandi migrazioni dal sud al centro e al nord della penisola. Il periodo della fuga dalle campagne e dell'accentuarsi della questione meridionale. In 10 anni gli occupati in agricoltura scendono da 8 a 5 milioni e dal 1958, l'anno in cui ha inizio il miracolo economico, gli italiani che lavorano in fabbrica per la prima volta sono più numerosi di quelli che coltivano i campi. Tra il 1955 e il 1970 i mutamenti di residenza sfiorano i 25 milioni. È proprio alla fine degli anni 50, esattamente nel 1959, che Danilo Dolci propone a Gian Giacomo Feltrinelli la pubblicazione di 32 storie di sottoccupati immigrati a Milano. Le interviste sono raccolte da Franco Alasia, operaio alla Breda. Per presentare le interviste, la Feltrinelli affida la stesura di un saggio al giovane sociologo Danilo Montaldi. A 50 anni dalla loro prima pubblicazione, queste interessanti interviste, uno spaccato di grande interesse appunto per approfondire le grandi trasformazioni in atto in quegli anni, vengono ora riproposte in un libro pubblicato da Donzelli dal titolo Milano, Corea, inchiesta sugli immigrati negli anni del miracolo. Tutti gli intervistati provengono dalle periferie milanesi caratterizzate da disordinati e irregolari insediamenti spontanei chiamati coree. Manovali in transito da un'impresa all'altra, ambulanti abusivi, contadini, muratori. Una marginalità che nasce nel tessuto stesso della modernità, di un sommovimento che sta cambiando radicalmente la struttura sociale dell'Italia del boom. Scrive Danilo Dolci nella lettera che accompagna l'inchiesta. Anziché vittime soltanto di una condizione di miseria, le persone intervistate apparivano come i protagonisti di un avvenimento più complesso, quello delle migrazioni interne, che ha proprie cause e ripercussioni. Ciò che colpisce in questo fenomeno, aggiunge Danilo Montaldi, è il consenso. Si direbbe di tutto un popolo che si muove da ogni regione per cause ogni volta diverse e particolari, ma sempre estreme. Proprio nel 1960 il film Rocco e i suoi fratelli di Luchino Visconti racconta la storia di una famiglia lucana che decide di emigrare a Milano per cambiare vita e costruirsi un futuro. Voglio! Dai, svegliate che stare le canne. Rocco, svegliate, mi ha cacciato a lavorare per tutto. Simo, svegliate. Erika. Quello. Oh, alzati, Erika. Oh, madonna mia, che c'è? Niente, ma niente. Guarda dalla finestra. Oggi lavoriamo tutti. La neve. È come neve che scende a fiocco. Luca, guarda la neve. Avanti, ragazzi. Rocco, sbagliato. Non la spicciamo, agliosi, non ne fregano un posto e po'. Simo, svegliate. Deve cassare, eh. E i milanesi non ne vanno a vedere neve per la strada. Alessandro, 24 anni, napoletano. La sua è una delle tante testimonianze raccolte nell'inchiesta. L'intervista racconta fedelmente quel che Alessandro ha da dire, compresi gli errori di grammatica. La gente vengono qua che sono sventurati. Lasciano il suo paese, se hanno fortuna. Se no, tornano indietro. Io sono di Poggio Reale, comune di Napoli. Stavo laggiù. Era un anno che ero sposato. Non c'era lavoro. C'era la miseria. Adesso può darsi che cambio vita, speriamo. Siamo a 8 chilometri da Milano e ci manca tutto laggiù. Lì non c'è una strada, non c'è luce, che per mettere 3 o 4 metri di filo ci vogliono un sacco di soldi. E viviamo come coreani. Abbiamo in linea lo storico Guido Krains, che ha curato l'introduzione di questo interessante libro Milano Corea, inchiesta sugli immigrati negli anni del miracolo. Professore, grazie e bentornato. No, grazie a voi. Ci dica, ci racconti un po' anche dalla sua esperienza di storico quel che di interessante c'è anche per chi legge e si avvicina per la prima volta a questi temi in queste 32 storie di sottoccupati immigrati a Milano negli anni 50. Queste storie di vita ci dicono che il miracolo è tante cose insieme. Il 1960 è appunto l'anno di Rocco e i suoi fratelli, è l'anno di Milano Corea con storie di estrema povertà, ma anche l'anno in cui esce l'integrazione di Bianciardi, che è incentrata sulla Milano del miracolo sostanzialmente, quindi ci dicono la compresenza di tante cose, di grandi miserie, di un'Italia che viene a Milano in primo luogo dalle campagne povere del Veneto, che sono le più vicine, e l'immigrazione meridionale viene in qualche modo in seconda battuta. La prima grande ondata di immigrazione a Milano è l'emigrazione dei polesani, in un Polesine devastato dalla rotta del fiume del 51 e poi da quelle successive, e in cui appunto c'è questo slanciarsi nelle aree, nelle zone dove si può trovare lavoro. E inizialmente non ci sono ancora le grandi assunzioni nelle fabbriche, cioè ci sono moltissimi lavori marginali. È interessante insomma che queste grandi immigrazioni, cioè questa costruzione di un nuovo italiano, perché questo succede, no, avvengono a dispetto delle leggi. La cosa assurda dello sviluppo italiano di quegli anni è che fino al 1961 queste grandi ondate di popolazione all'interno del paese convivono con il permanere delle leggi fasciste contro l'urbanesimo, che praticamente rendevano clandestini del lavoro gli immigrati nella propria patria, nel senso che a Milano se non eri residente non avevi lavoro, se non avevi lavoro non potevi avere la residenza, che naturalmente era aggirato con delle varie forme e così via, ma soprattutto faceva crescere una gestione illegale della manodopera con forme di sfruttamento selvaggio, e soprattutto mostrava a queste grandi folle di immigrati che andavano verso l'Italia moderna, che l'Italia moderna era un'Italia in cui le regole ce n'erano quasi meno che al loro paese. E soprattutto si potrebbe aggiungere anche, professor Kreinz, leggendo queste interessanti storie, che si tratta appunto di storie di marginalità vissute in moderne banlieue, potremmo dire, perché ad esempio la testimonianza di questo giovane napoletano che abbiamo appena ascoltato racconta di una famiglia, di una giovane famiglia che si è insediata a 8 chilometri da Milano e dunque ha difficoltà anche a raggiungere... Un altro pezzetto dice: mia moglie è venuta su, voleva tornare indietro perché questa non è Milano, questa è Corea. E poi lui dice: viviamo come coreani. Scorrendo il libro ogni tanto si ha l'impressione di avere quasi le traveggole, nel senso che si trova la storia degli ex baraccati di via Jenner. È veramente per certi aspetti impressionante il ripetersi di questi aspetti, soprattutto rispetto all'oggi, cioè non solo lo sfruttamento selvaggio che c'è sulla manodopera e che il libro Il saggio di Montaldi ricostruisce bene, insomma, in sostanza prima avevamo parlato di Visconti, per arrivare a tempi noi più vicini è la storia raccontata da un film di Gianni Amelio, Così ridevano, ambientata a Torino, cioè la storia appunto di queste cooperative finte, insomma, che aggiravano le norme sul lavoro e quindi da un lato sfruttavano la manodopera, dall'altro appunto presentavano l'arbitrio come cardine anche nella società moderna. Ecco, questi sono aspetti che colpiscono, e colpisce anche, devo dire, qui parlo da storico accademico, colpisce il fatto che i due contributi principali che noi abbiamo, questo libro e quello di Goffredo Fofi su quegli anni, vengono da intellettuali non accademici. Sì. Prima di tutto perché allora la sociologia in Italia esisteva poco, e se esisteva c'era un forte ostracismo, in particolare della cultura marxista, perché era considerata una cosa americana, quindi pericolosa, diciamo. C'era un po' di sociologia cattolica, difatti ci sono dei sociologi cattolici che studiano questi aspetti, ma noi in realtà questa grande trasformazione noi ce l'abbiamo attraverso grandi registi come Visconti, attraverso grandi giornali, l'Espresso, Il Giorno, per citarne due, che fanno delle grandissime inchieste su questi fenomeni, e anche grazie a intellettuali non accademici, in cui impegno è intellettuale molto legato all'impegno politico. L'altra cosa interessante, per finire, professore, è che queste interviste sono raccolte, come dire, sul campo, con una tecnica moderna, e quindi si dà voce agli intervistati anche senza eccessive mediazioni, potremmo definirle giornalistiche. Sen- senza neanche adorarli, perché in questo il saggio di Montaldi secondo me è esemplare, nel senso che squarta queste interviste, per cui ha molto rispetto, ma appunto le inquadra in un contesto, ce le fa leggere, ce le fa capire. Devo dire che ci sono degli stralci, fa un po' impressione a me, per citarne una che mi ha molto colpito, insomma l'ho citata anche nell'introduzione, è il racconto di un siciliano, un contadino siciliano, che per dire quanto era grande un terreno in Sicilia, diceva, il padrone ne aveva di terra, ce n'era almeno 4 ore da camminare col cavallo, cioè non parla di chilometri, ma di tempo, di come nel mondo antico, insomma, sembra di leggere il libro di Kula sulle misure nel mondo antico, insomma, in cui appunto la distanza è calcolata con il tempo che ci si impiega a percorrerla, insomma, e siamo nel 1960, non è una persona isolata, ha vissuto delle lotte collettive e così via, ma mantiene questa forma del raccontare che è, come dice Montaldi, una preistoria ben contemporanea, cioè che ci dice come orizzonti culturali preistorici, insomma, o comunque diciamo premoderni, convivono con il massimo della modernità, perché siamo nel pieno della modernità italiana. Professore, molte grazie, buon lavoro. Grazie a voi. Grazie a voi.